Allora, il 13 novembre del 1986 l'apertura dei telegiornali è dedicata agli sviluppi dei colloqui di un mese prima tra Reagan e Gorbaciov a Reykjavik, che aprono uno spiraglio di pace fra Stati Uniti e Unione Sovietica, e alla missione fatta dallo stesso Reagan pochi giorni prima di una responsabilità statunitense nella vendita di armi illegali all'Iran, il cosiddetto Iran Gate. Ma poco più avanti nei titoli, ecco che appare il volto rugoso di una signora anziana, l'archetipo della nonnina con capelli argento accrocchiati, un sorriso sereno e gentile e due occhi azzurri, dietro i quali si intravedono una feroce determinazione e una velata malinconia. E un titolo in sovraimpressione: grande successo per la scienza italiana. Assegnato il premio Nobel per la medicina alla torinese Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini. Chi cazzo è? Ma chi la conosce? Cosa ha fatto per meritarsi il Nobel? Oggi nessuno oserebbe fare le prime due domande. La terza, invece, temo sia ancora attuale. Un po' perché la cultura scientifica in Italia non è che sia così estesa, anche quando riguarda nostri connazionali. Per esempio, qualcuno sa di preciso perché hanno vinto il premio Nobel per la medicina Salvatore Luria nel 1969 e Renato D'Ulbecco nel 1975? Un po' forse anche perché la figura di una donna scienziata in Italia, ancora oggi, non è del tutto compresa, forse nemmeno completamente accettata. Oh, nessuno lo ammetterebbe mai oggi, intendiamoci, perché non va di moda. Ma nel 1986 nessuno si fa di questi problemi. Luria e D'Ulbecco, anche se non sappiamo un tubo di cosa hanno fatto per meritarsi il Nobel, in quanto uomini, hanno in un certo senso diritto di cittadinanza in quel consesso di grandi menti che il volgo immagina debbano essere gli scienziati premiati con il Nobel. Hanno pure la faccia giusta, Luria e D'Ulbecco. Non sulle nuvole, un po' persi nei loro pensieri, non alla Einstein, insomma, no, ma rassicuranti, fieri, buoni padri di famiglia, con fronti spaziosi e capelli radi, che significano studio e applicazione, e la tranquillità di chi è presente, di chi sa. Ma la Montalcini. Con quella pettinatura da nonna papera, quel sorriso un po' sghembo, un fisico di straordinaria magrezza e un'impressione generale di instabilità, di fatica. Fa tenerezza, fa simpatia, basta. Cioè, per carità, se dicono che è brava tanto da farle vincere un Nobel, sarà brava, ma lo sarà davvero? Non mi dà proprio tutta sta sicurezza, dai. Solo perché è italiana nei titoli del TG. Se fosse danese o guatemalteca non ce ne fregherebbe niente. Forse rideremmo anche davanti alla sua foto, non credendoci. Ma chi è questa qua? E ci stupiremmo invece nel sapere da quanto tempo meritasse quel premio. Quanta fatica, quanto studio, quanto amore per il proprio lavoro ci stanno dietro, ma anche quanta soavità, quanta leggerezza. Quanta bellezza. Ci stupiremmo nel sapere che Rita ha lavorato lontano dall'Italia, non da cervello in fuga, ma per scelta, al fianco di scienziati cui noi non oseremmo nemmeno rivolgere la parola e a cui lei invece dà del tu. Ci stupiremmo nel sapere che Luria e D'Ulbecco, i due premi Nobel italiani per la medicina prima di lei, sono suoi cari amici. Sono suoi compagni di università, di avventure, di sogni, che lei ha aiutato nei loro lavori, così come loro hanno dato una mano a lei. D'altronde, nel mondo maschile e patriarcale, fanno sempre questa impressione le donne che non si nascondono e non hanno voglia di recitare un ruolo imposto loro da qualcun altro, che siano il padre, il marito o la società. È un venerdì luminoso. Quello del 19 settembre 1947. la guerra è finita da un paio d'anni, ma tutto è ancora miseria, tutto macerie. Il futuro è da costruire, ma appare incerto, difficile, pieno di domande. Ce la farà l'Italia a rialzarsi? Saremo capaci di tornare a vivere insieme dopo 2 anni di guerra civile? Beh, sono i boogie-woogie portati dai soldati americani che riempiono l'aria delle prime estati post-belliche facendo roteare giovanotti e signorine in pose che solo qualche mese prima sarebbero state considerate oscene, non bastano a dissipare i dubbi. Al porto di Genova è all'ancora una nave passeggeri polacca, il cui nome è Sobieski, in onore del re che 300 anni prima ha difeso Vienna dall'Islam. Durante la guerra ha operato come nave trasporto truppe in scenari esotici come Dakar, Singapore e Madagascar. Ora è attiva da pochi mesi sulla rotta Genova-New York, una volta al mese, a portare italiani che cercano fortuna negli Stati Uniti, non turisti. No, no. Quel giorno la nave è in partenza e ospita fra gli altri 2 assistenti universitari dell'Istituto di Anatomia dell'Università di Torino. Sono Renato Bulbecco e Rita Levi Montalcini. Lui è felice come una Pasqua. Il suo amico Salvatore Luria lo ha invitato a Bloomington, nell'Indiana, per aiutarlo nelle ricerche sui virus. Commosso e lungimirante, infatti, Salvatore è andato là all'inizio della guerra e ora è professore, mentre Dulbecco e Montalcini traccheggiano nell'italietta post-conflitto aspettando un colpo di fortuna che ora sembra essere arrivato. Ah, almeno per Dulbecco, che esaspera la sua innata simpatia continuando a raccontare barzellette a una cigliata Montalcini, che invece osserva il molo allontanarsi lentamente, il mare farsi più scuro, più uniforme, con un misto di tristezza e di malinconia. Cos'hai, Rita? Niente, Renato, niente, niente. Senti, non mi freghi, Rita. Ti conosco bene e so che c'è qualcosa che non va, ma non capisco cosa. Ma caspita, stiamo andando in America, Rita. In America! Dovremmo fare le capriole, questo è un treno che passa una volta sola e noi l'abbiamo preso al volo, invece tu che fai? Guardi fuori dall'oblò e sospiri? Tu hai diritto a fare le capriole. Vai da Salvatore, che è un tuo amico, a fare ricerca in un campo che lo vedrebbe anche un bambino, ha un futuro pazzesco. Infatti continui a dire che vuoi restarci in America. Ma io? Io vado a St. Louis per 6 mesi. Forse 1 anno, a lavorare con un perfetto sconosciuto, sapendo a malapena dire in inglese buongiorno e buonasera, a fare ricerche sulla neuroembriologia, che non so dove porteranno perché mi sa che mi interessano solamente a me e al mio professore. E anche se dovessi cavarne qualcosa, e dubito molto, non potrei mai trasferirmi laggiù in America. Dai, tu sei sposato e tua moglie ti raggiungerà ovunque tu decida che venga. Ma tu ce la vedi invece mia sorella, mia mamma soprattutto, lasciare Torino per raggiungere me in America? Ma che dici, Rita? Ma i tuoi studi sono importanti. Ci si è dedicato perfino il professor Levi, il tuo maestro, che ti ha fatto da assistente per mesi. Ma capisco le tue malinconie, ci mancherebbe, ma non i tuoi dubbi. Vedrai, Rita, diventeremo famosi. E tu perfino più di me. Dulbecco la abbraccia, in realtà però la fa solo per consolarla, perché anche lui è abbastanza pessimista sul futuro di Rita. Il campo di studi in cui si è inerpicata l'amica è molto affascinante, certo, ma privo di strumenti, di tecniche adeguati. La neuroembriologia, che già a dirlo, no, ma difficile, neuroembriologia, cioè lo studio di come si sviluppa il sistema nervoso degli embrioni, è come una giungla. Una giungla primordiale in cui chi si avventura resta osservare l'incastro di piante, arbusti e sottobosco. Peccato che Rita abbia in mano per districarsi non un macete, ma un coltellino, spuntato per giunta. Oh, ci è arrivata quasi per caso, Rita, a questi studi. Grazie a una ricerca commissionata dalla Clinica di Malattie Mentali dell'Università di Torino, condotta nel 1939 insieme a Fabio Visentini, sui tessuti nervosi degli embrioni di pollo. E grazie soprattutto a un articolo di un certo Victor Hamburger, si chiama così, Hamburger, allievo peraltro di Hans Spemann, biologo tedesco vincitore di un Nobel nel 1935. osservando lo sviluppo di embrioni di pollo a cui è stato tagliato un arto. Non chiedetemi come si fa a tagliare la zampa a un embrione. Hamburger ha notato che la zona dove avrebbe dovuto esserci l'arto tagliato presenta poche cellule nervose. Beh, il suo maestro ha visto giusto. Niente arto, niente fattore organizzatore, cioè la scintilla che specializza le cellule, e quindi niente cellule nervose. Levi Montalcini ci si appassiona a questi studi. Nonostante la guerra, che inizia di lì a poco, li continua attrezzando un vero e proprio laboratorio nella sua camera da letto di Torino. Gli strumenti non gliene servono poi molti. Il più complicato è un microscopio binoculare che viene ordinato direttamente alla sede della Zeiss, qua a Milano. Lo va a prendere direttamente lei il 10 dicembre 1940, a guerra iniziata da 6 mesi. Glielo infilano in una grande cassa ingombrante che tutta felice trascina sul treno di ritorno a Torino. Quando alla stazione due vigili, forse sospettando che dentro la cassa ci sia roba da mangiare presa al mercato nero, le ordinano di aprirla, Rita quasi ha un mancamento. Rita è ebrea e se si mettono a contestarle qualcosa può finire male. Ma i due, di fronte a quel robo enorme che non sanno manco bene che cos'è, si guardano e bruscamente le dicono: richiudi la cassa e vai via, dai, via, veloce. Il megamicroscopio viene messo con tutti gli onori a fianco a un piccolo termostato che funge da incubatrice, ad aghi da cucire che fanno da bisturi, a pinze da orologiaio, microforbici oftalmiche e una cassettina creata ad hoc dal fratello architetto con due buchi in cui poter infilare le braccia e poter operare alla temperatura costante di 38 gradi. Il tutto su una scrivania spostata contro la finestra che dà sul cortile interno, circondata da altri due tavolini, da una credenza su cui poggia un'istoteca per la conservazione dei vetrini. Porta chiusa. La madre a vegliare affinché non venga disturbata durante gli esperimenti. Shhh. Rita sta operando. Non si può entrare. No. Nessuno può entrare, no. Nessuno, tranne il professor Giuseppe Levi, maestro suo, di Luria e di Dulbecco, che è venuto a sapere del lavoro dell'ex allieva, vi si unisce d'imperio, non più come maestro, ma come assistente, rischiando ogni volta con la sua stazza e la sua goffaggine di far cadere a terra i preziosissimi vetrini. 2 anni dopo, la vita a Torino diventa praticamente impossibile per via dei continui raid aerei. La famiglia Levi Montalcini decide di sfollare in campagna, nell'Astigiano. Rita non demorde però, sistema il suo laboratorio in un angolo della grande sala comune, tra la cucina e un divano, e continua con gli suoi esperimenti. Tra l'altro, a dire il vero, le va pure meglio che in città, perché a Torino trovare le uova era diventato praticamente impossibile. Beh, in campagna invece è molto più semplice. Rita ogni giorno inforca la bici, va dai contadini, prende le uova e, facendo finta di niente, chiede anche quali sono quelle fecondate e quelle no. Poi torna a casa, apre le uova fecondate, con le microforbici toglie gli embrioni e li piazza sul vetrino, poi si volta e la parte restante dell'uovo lo getta in una padella e fa frittate. Frittate su frittate che dà da mangiare ai suoi familiari ignari. A tutti, tranne al fratello, che si accorge dei maneggi di Rita e con garbo, ma anche con decisione, sceglie di non aderire a quella dieta iperproteica. Anche no, grazie. Non c'è problema, come se avessi accettato, eh? Le ricerche febbrili portano Levi Montalcini alla scoperta interessante. È un nemica vero che manca il fattore organizzatore negli embrioni di pollo a cui viene tagliato un arto. No, anzi, le cellule nervose ci sono, perfettamente differenziate, e se ne vanno dritte dritte verso il luogo dove con rigida determinazione dovrebbero posizionarsi. Ma poi, come i lemming che si gettano distinto uno dopo l'altro da una scogliera, arrivati al moncone, al bordo della loro scogliera, quindi degenerano, distruggendosi. Vorrebbe pubblicare quello che ha osservato in un articolo, ma non può mica, è ebrea. Ed è già tanto che quel 1942 sia ancora viva e vegeta. Invia allora le sue considerazioni ai redattori di una rivista belga, Archive de Biologie, conosciuti durante un soggiorno di lavoro a Bruxelles, e questi le pubblicano. Ma la guerra finisce senza che l'articolo cambi nulla nella vita di Rita. Nessuno pare interessarsi alle sue conclusioni. La neuroembriologia è un campo di analisi troppo ristretto e specialistico perché possa attrarre studi, finanziamenti soprattutto, e i risultati stessi sembrano essere di poca utilità pratica. Chi se ne frega della neuroembriologia, dai, andiamo. La giovane ricercatrice va quasi in depressione. Accetta quindi un posto come assistente di Levi, il suo vecchio maestro, reintegrato alla cattedra di anatomia dopo le follie anti-ebraiche. Oh, non male, per una donna di poco più di 35 anni. È stimatissima dal suo mentore. Tiene corsi di biologia e può continuare tranquillamente gli esperimenti che l'appassionano tanto, anche se non sa ancora perché li fa. Si mette il cuore in pace, Rita. Fa la sua piccola carriera universitaria e, anche se la sola idea le mette ansia, magari si sposerà e farà addirittura un figlio. Insomma, farà quello che le viene richiesto, in quanto donna, dalla società. La moglie, la mamma, la maestra. All'occorrenza, ogni tanto si chiuderà in un laboratorio a giocare con le uova, togliendo embrioni senza più fare frittate con quello che resta, e li osserverà attraverso un microscopio mentre gli occhi le si riempiono di lacrime. Ma il diavolo è nei dettagli. In una tiepida giornata di primavera del 1946, Giuseppe Levi convoca Rita nel suo studio con urgenza. Quando lei entra, lo trova accigliato, molto cupo, tanto che la ragazza comincia a tremare. Avrò sbagliato qualcosa. Cioè, mandando a ritroso con la memoria, non riesce a trovare cose che ha sbagliato. Non le sembra di aver fatto nessun errore grave. Sì, piccoli errori, ma non così gravi. Mazza, c'è la faccia questo che... Levi la guarda negli occhi con attenzione. Poi le consegna una lettera che teneva sulla scrivania. Nella tensione Rita non l'aveva neanche notata. La lettera è di Victor Hamburger. C'è scritto che ha letto l'articolo della dottoressa Levi Montalcini su Archiv de Biologie. È rimasto molto sorpreso dai risultati ottenuti dalla studiosa italiana, che sono l'esatto opposto dei suoi. E quindi conclude invitandola a lavorare insieme per 6 mesi su quel problema presso i laboratori dove lui insegna, alla Washington University di St. Louis. Rita alza gli occhi verso il professor Levi, basita. E il professore smette quell'aria torva, prorompe in un sorriso da orecchio a orecchio. Rita, fai subito i bagagli, è una grande occasione. Ma professore, ma non saprei, ma così di punto in bianco, ma poi mia mamma, ma non lo so, ma come fa mia mamma da sola, ma poi lei professore, i miei esperimenti, poi... Al che Levi si alza, minaccioso sul serio stavolta, brandisce un tomo di anatomia che ha sulla scrivania. Non osare nemmeno rifiutare, Rita. Ti scaravento addosso questo volume e anche tutte le uova fecondate che si possono trovare a Torino. Basta dirlo. Ecco perché è sulla Sobieschi, Rita Levi Montalcini. È lì perché uno studioso americano allievo di un premio Nobel ha letto su una rivista l'articolo di una giovane ricercatrice che dice che lui in pratica ha scritto un sacco di cazzate. E anziché derubricare il tutto come è donna, è italiana, è ebrea, le ha chiesto di collaborare. Magari sperando in cuor suo che lei si sbagli, ma intanto ha dichiarato che vuole lavorare con lei. Perché non si sa mai cosa ne può venire fuori. E lei non ci crede. Piagnucola, lasciando l'Italia, ma tanto lo sa, dai, saranno soltanto 6 mesi, dai, solo 6 mesi, pieni di delusioni, perché anche se collaborerà con un professorone americano, tanto poi quello che scoprirà, chi ne frega, non gli frega niente a nessuno, 6 mesi. 7, dai, te, via, dai. E poi torna, dai. Rita Levi Montalcini da bambina pensava che i maschi l'avessero vinta perché avevano una voce più tonante di quella delle femmine. Oppure perché erano più bravi a fare gruppo e bastava loro dire una cosa perché le femmine obbedissero. Ne è convinta perché vede il padre troneggiare sulla madre e la madre non provarci neanche a contraddirlo, perché lo vede ripeterle, scherzoso, ma fino a un certo punto, le frasi che diceva il grande attore Ermete Zacconine, il padrone delle feriere: tu mi ami, io ti adoro, ma ti spezzerò. Perché poi, già più grandicella, viene presa in giro dai cugini, che in coro le ripetono l'assoluta supremazia intellettuale maschile. Si è mai visto un genio donna? Ma non di certo. Mentre invece, guarda, Leopardi, Leonardo, Beethoven, Newton, tutti uomini. Ci sarà un motivo, no? Ma Saffo, ad esempio, Saffo, che avrà fatto mai Saffo? Quattro frammenti in croce. Michelangelo ha fatto la Cappella Sistina, dai, non c'è storia, dai. Crescendo si rende conto che il mondo non è poi così diverso. E allora nutre una specie di disprezzo verso il genere maschile, così generalmente tronfio e presuntuoso, che, unito a una certa mancanza di autostima, oltre che a una congenita timidezza, la fa rinchiudere in se stessa, nello studio matto e disperato che è l'unica sua gioia. Lo sa bene che il mondo per lei vorrebbe un'altra strada. Ha già dovuto discutere con il padre quando ha deciso di iscriversi a medicina contro il suo parere. Ha dovuto ascoltare le baggianate fasciste dell'uomo forte e lavoratore e della donna madre e lume del focolare domestico. Ha visto la poca attenzione che la sua ricerca ha suscitato. L'unico che è parso a interessarsi è colui che ha confutato. Non crede nemmeno per un minuto ai complimenti che in 2 settimane di traversate oceanica le rovescia addosso d'un becco. È un amico, Renato, e cos'altro dovrebbe fare se non quello? Dai! Quando mette piede alla Washington University, vede un gruppo di studenti seduti per terra, su uno dei prati del campus, ad assistere alla lezione all'aperto di un giovane assistente. D'altronde fa caldo, c'è un bel sole di settembre, perché starsene al chiuso in un'aula umida? Beh, perché non si è mai fatto, per esempio, non in Italia. E Rita resta sconvolta da quel che vede. Non sa se le piace o no, è quella totale mancanza di formalismo a cui non è abituata, però. Ma c'è un altro particolare. I ragazzi sono in camicia bianca e cravatta, intenti a prendere appunti e a fare domande. Le ragazze sono in gonna lunga, golfino, a lavorare all'uncinetto mentre ascoltano la lezione. Ma a cosa serve allora l'informalità, se poi continua una rigida divisione dei sessi? Tanto vale starsene in divisa e dire signor sì, tanto poi all'atto pratico non cambia niente. E con questo animo in subbuglio, che conferma i suoi pregiudizi verso l'altro sesso, si presenta al professor Hamburger. Rita si aspetta di essere accolta con la solita gentilezza algida a cui è abituata, una specie di sorrisetto impostato con annessa alzata di sopracciglio. E invece si trova di fronte un Marcantonio bislungo di 1,85 m che le sorride con entusiasmo, stringendole vigorosamente la mano. Le parla in un inglese perfetto, che lei finalmente può capire, dopo le disavventure all'ufficio immigrazione e anche sul taxi che l'ha portata al campus, che non capiva un tubo di quello che diceva. La invita a cena a casa propria, follia pura, presentandole la moglie. Si scusa poi di non essere riuscito a trovarle in tempo una sistemazione adeguata, offrendole per qualche giorno una camera in un albergo a 5 stelle. Le confida che l'americano medio del Midwest è una persona piuttosto antipatica, piuttosto chiusa. Lui ha fatto molta fatica effettivamente ad adattarsi. E la avverte, in modo ironicamente civettuolo, che in università non tutti sono contenti del suo arrivo. I maschi, in quanto donna. Le femmine, in quanto sono tutte innamorate di lui e temono che lei glielo possa portare via. Insomma, in un'ora di colloquio, Hamburger annichilisce Rita, che all'uscita dal suo ufficio si rende conto che hanno parlato, sì, di un sacco di argomenti che lei definirebbe futili, ma anche di esperimenti, di scienza, di lavoro. Non è abituata, Rita, a tanta franchezza, a tanta generosità, e si addormenta confortata, pensando però, nel suo eterno pessimismo, che il giorno successivo si dovrà ricredere. Ma non sarà così. I mesi passano, Rita Lavora come una matta, in modo solitario, come è normale che sia per una ricercatrice. Non è poi abituata a fare amicizia e vita sociale, così le sembra addirittura strano che gli altri membri del dipartimento la invitino spesso a gite in barca lungo il Mississippi o gli altri corsi d'acqua che circondano St. Louis. Non c'è distinzione, né di ruolo, né sociale. Lei, sia dentro i laboratori che al di fuori, non è la dottoressa Levi Montalcini, ma semplicemente Rita. Una collega degna di rispetto semplicemente perché è lì. Come degne di rispetto sono le domande poste dagli studenti e i professori e le discussioni spesso accese che si creano negli sterminati viali del campus o nelle aule studio delle palazzine di mattoni rossi, dove a scontrarsi sono solo le idee e non chi le propone. Rita, che nei primi mesi scrive lettere su lettere in cui l'ottimismo tranquillo nasconde in realtà l'inquietudine della lontananza, comincia però a diradare i contatti. Torna in Italia per Natale, ma qualcosa le va stretto. Deve tornare subito a St. Louis. Gli esperimenti con i suoi amati embrioni di pollo, le chiacchierate con Victor, come ormai chiama il professore che l'ha invitata, le passeggiate serali verso il Gateway Arch che sovrasta il Mississippi, le escursioni domenicali alla vicina Bloomington per visitare e abbracciare Luria e Dulbecco e sommergerli con le sue ansie. I miei studi non servono a nulla, sono venuta qui per niente, non lascerò niente della mia presenza. E gli amici a consolarla, prendendola in giro. Certo, Rita, certo, sì, certo. Aspetta un attimo, e ti presento il tizio che è all'ufficio a fianco, e così vedi come ha fatto un premio Nobel. Ha sempre più bisogno di tutto questo, Rita. Altro che un paese come l'Italia, ancora chiuso nei suoi conservatorismi tetri. Il semestre di invito, però, volge al termine. A malincuore si appresta a immaginare il ritorno alla normalità. Ma qualcosa cambia gli scenari. Un giorno, osservando i soliti embrioni di pollo con stanchezza e distrazione, nota una stranezza. Alcune cellule nervose non seguono la traiettoria che ci si aspetterebbe, ma si differenziano molto dopo la loro nascita a seconda dei settori che devono coprire. E quelle in eccedenza semplicemente muoiono e vengono eliminate da altre cellule il cui compito in pratica è quello di fare i becchini. Davanti ai suoi occhi increduli compaiono per la prima volta le evidenze di processi di neurogenesi. Forse non è mica vero che tutto è predeterminato allora, come fino a quel momento si è creduto, quasi come se ci fosse un Dio creatore che dice alle cellule tu vai lì e fai questo, tu vai là e fa quest'altro. Forse a volte accade qualcosa di inaspettato, forse la questione è un pochino più complessa, forse ha scoperto qualcosa. Si precipita nel vicino ufficio di Hamburger quasi urlando, lo prega di andare di là, gli spiega balbettando quello che ha osservato. Il professore va, osserva e poi sorride divertito. Rita, temo che dovrai stare ancora un po' qua a fare degli esperimenti. L'Italia può aspettare. Torna a casa dopo alcune ore e continui esami dei vetrini per controllare se ci siano errori, interpretazioni sbagliate, inciampi. Ma no, è tutto vero. È proprio vero. C'è tanto lavoro da fare, ma soprattutto ci sono i motivi per farlo. Rita adesso lo sa, perché è St. Louis. Sa quello che deve fare. Si versa un bicchiere di vino, mette sul giradischi una sonata di Bach, guarda fuori dalla finestra la neve che scende mulinando e finalmente sorride. Beata. Facciamo un salto alla primavera del 1961. Primavera 1961. Rita Levi Montalcini scende dalla scaletta di un aereo a Fiumicino. Non è più tempo di traversate navali, ora è una scienziata famosa nel suo ambiente, si può permettere dei voli transoceanici, anche se in classe economica, non in business. Ma non è mica stato semplice. Dopo quella scoperta quasi casuale di 14 anni prima, Rita continua a lavorare sull'amatissimo sistema nervoso degli embrioni di pollo finché Hamburger le racconta quasi distrattamente di alcuni esperimenti che un suo dottorando, un certo Hans Bücher, sta portando avanti che a noi comuni mortali potrebbero sembrare piuttosto bizzarri. Bücher ha preso due embrioni di pollo. In uno ha inserito cellule tumorali maligne di topo. In un altro ha messo un'ala in più. E vediamo che succede. Succede stranamente la stessa cosa. Le cellule nervose si moltiplicano. Nel caso dell'ala in più, semplicemente perché c'è più spazio. Ma nel caso del tumore, che viene circondato minacciosamente da legioni di cellule nervose, perché? Levi Montalcini si getta a capofitto nella ricerca e arriva a supporre che l'effetto non sia in realtà identico come appare. Quello che deriva dall'innesto del tumore sembra in realtà causato da un qualcosa di insondabile. Come se fossero le cellule tumorali a emettere una sostanza che porta alla crescita disordinata di cellule nervose. Lo scrive in una relazione che presenta la New York Academy, che viene però accolta con grande scetticismo dagli ambienti accademici. La Rita di qualche anno prima si sarebbe depressa di fronte a questa indifferenza, avrebbe pensato, ma dove sto sbagliando? Metapila! Ma ora no. Ora è un'altra Rita. Ora è abituata a lottare per quello in cui crede. E allora continua gli esperimenti, raccontando i suoi progressi a tutti. E soprattutto a un nuovo amico, Nando. Nando è un ricercatore cileno di elettrofisiologia che però non si sa bene per quale motivo vorrebbe lavorare in neuroembriologia. Forse perché vuole lavorare con Hamburger, che è una persona famosa. La cosa si rivela in realtà impossibile, ma Nando e Rita diventano inseparabili. Oh, intendiamoci, niente di sessuale, niente di ambiguo. Lui è già sposatissimo, con 3 figli, piuttosto la vicinanza di anime affini, sì. Quello. Lui pare essere l'unica persona in grado di ascoltarla senza per forza controbattere, ma anche in grado di farla uscire dalla quieta normalità che si è autoimposta proponendo le gite in mezzo alla natura e anche ascolti musicali un po' più approfonditi rispetto a Bach. È con un sorriso gentile che Nando accoglie i racconti tumultuosi di Rita dopo l'ennesima cena a casa di lei, e poi quando lei sta parlando ormai da mezz'ora la ferma, inserendosi in una piccola pausa, perché anche Rita lì di Montalcini respira, e comincia lui a raccontare un episodio della sua infanzia avventurosa, per esempio, oppure quella volta in cui si è addormentato in una grotta e si è svegliato con un piccolo vampiro sotto l'ascella che lo osservava grato per quel tepore. E intanto mette sul piatto di Vintage di Schubert oppure il disco di qualche sconosciuto musicista barocco italiano che hanno ascoltato insieme in una delle loro scorribande domenicali nel loro negozio di dischi preferito di St. Louis. Nando la ascolta, la consiglia. A volte appare strano, assente. Rita non capisce perché, un po' ci resta male, ma quando c'è, quando c'è, sa guardarle dentro come nessuno ha mai fatto prima. Rita, io non ci capisco moltissimo di quello che fai, ma il tuo approccio, caspita, è quello di un genio. È l'entusiasmo di un bambino. Tu devi fare un salto di qualità, Rita. Nando, la fai facile. Dove andare a fare ricerca di Rio de Janeiro, per esempio. La mia amica Hertha Meyer ha messo in piedi un laboratorio fantastico, ma come faccio? Rita mia, ma è semplice. Chiedi a Victor di farti avere un finanziamento dall'università e il gioco è fatto. Un finanziamento. Non me lo daranno mai. Nando, sono donna. E dico cose che loro non capiscono e su cui non sono d'accordo, ma figuriamoci. Rita, provaci. Noi maschietti non siamo mica tutti così ottusi come pensi, lo sai? Rita ci prova. E incredibilmente il finanziamento viene concesso. Parte per Rio nel settembre del 1952. Come bagaglio a mano, in aereo, Rita si porta dietro una cassetta con dentro 2 topolini portatori di tumore, che ogni tanto osserva dai buchi fatti per permettere di respirare mentre tranquilli sgranocchiano una mela che per loro è gigantesca. roba inconcepibile oggi, ma forse pure ai tempi. D'altronde bastava non dichiararli alla frontiera. Cos'ha nella cassetta, signorina? Oh, niente, attrezzi da lavoro, così in cabina non rimango con le mani in mano. Torna da Rio un anno dopo, con un test che comprova la sua teoria. Un test formalmente elegantissimo, ma che non risponde alla domanda più importante. C'è qualcosa che accade. Qualcosa viene sprigionato. Ma che cos'è questo qualcosa? Victor, è una reazione chimica, è come l'odore delle rose. Per scoprire cosa sia, io ho bisogno dell'aiuto di uno studioso, di un biochimico. Ed è così che appare sulla scena Stanley Cohen, un trentenne newyorkese dall'aspetto trascurato, che ogni giorno arriva in ufficio a piedi accompagnato dall'inseparabile cane Smog, con in bocca una pipa e in mano la custodia di un flauto che alla sera a fine lavoro suona per rilassarsi. È il prototipo dello scienziato un po' folle, Stan, ma con Rita si intende a meraviglia fin da subito. Lui ammira la tenacia di Rita, la grinta, la capacità intuitive che la fanno essere fuori dagli schemi. Lei di Stan apprezza la modestia, la noncuranza per le apparenze, la serietà che mette nel lavoro. I due lavorano come matti, ma ci vuole del tempo perché capiscono cosa sia questo Nerve Growth Factor, NGF. Come lo chiama Stan? È una proteina? È un acido? Per deciderlo, provano a iniettare veleno di serpente che normalmente distrugge gli acidi. Se quella roba resta viva e vegeta, significa che è una proteina. Ma qui accade l'impensabile. Non solo l'NGF lavora ancora, e quindi una proteina e non un acido, ma le cellule nervose intorno crescono alla velocità della luce. Ma sta a vedere che perché l'NGF è dentro al veleno? E infatti è così. C'è. Ed è tantissimo. Tanto che si può identificare il peso molecolare e anche la quantità. Nel 1958 si scopre che anche grandi quantità di NGF sono presenti pure nella saliva dei topi. Nel 1959 si fa l'esperimento chiave. In cavie ai primi giorni di vita si inietta un antisiero specifico che inibisce lo sviluppo dell'NGF. Il risultato è che i poveri animaletti crescono con un sistema nervoso non sviluppato. È la prova che questo misterioso NGF è un fattore fondamentale nella crescita e nello sviluppo del sistema nervoso. Boom! E se fosse importante anche per l'uomo? E se aiutasse a sviluppare cellule nervose in chi soffre? E se... È ancora troppo presto per queste risposte. Intanto Rita racconta le sue scoperte in conferenze in giro per il mondo, dove immancabilmente è l'unica donna presente, compreso il pubblico. Tanto che i presentatori cominciano a parlare dicendo «Lady and gentlemen». Poi Hamburger la nomina professoressa di biologia alla Washington University. Così può insegnare ai padri dei boomer a fare come lei, a studiare tanto, rispettare le idee degli altri, ma non fidarsi mai di nessun dogma, perché non esiste dogma per uno scienziato. Esiste solo un'altra isola da raggiungere. Nel 1960 il suo grande amico Nando muore all'improvviso. Il suo ottimismo vitalistico non l'ha aiutato a diventare qualcuno e gradualmente l'alcol ha preso il sopravvento. Viene abbandonato da moglie e figli, rifiuta di accettare le cure che tutti gli consigliano, finché una notte viene ucciso da un infarto fulminante a solo 38 anni e la sua mano tiene stretta la cornetta del telefono al termine di un'ultima chiacchierata con Rita. Il dolore per lei è quasi insopportabile. E si mischia con le riflessioni che sta facendo da qualche mese. Ma che ci fa ancora lì, a St. Louis? Ha una madre anziana e malaticcia. Ha una sorella gemella che è diventata un'importante pittrice e da cui ha sempre faticato a stare lontana. Perché non prova a mettere a frutto le sue scoperte nel paese in cui è nata? Le offrono lavori ovunque, in Israele, a Stoccolma, perfino in Australia. Le fanno ponti d'oro pur di averla lì. Ma Rita dice di sì al direttore del CNR, che crea apposta per lei un centro di ricerca in neurobiologia. Dovrà vivere a Roma anziché a Torino e questo un po' le pesa, ma sarà in Italia. E potrà pure tenere il posto di docente in America, facendo avanti e indietro ogni 6 mesi. Quando mette piede a terra in quella primavera del 1961, Rita è felice. Ah, è ritornata da vincitrice. Tutto sta andando per il meglio. Ma non sempre sarà così. Nel 1983, Robert Walgate, in un articolo sulla rivista Nature, significativamente intitolato «L'ordine può scaturire dal caos», si meraviglia che i ricercatori italiani riescano a svolgere attività scientifica nonostante il caos ambientale, finanziario e politico in cui operano. Nel 1983, Rita Levi-Montalcini ha già lasciato da 4 anni le redini ufficiali del centro di neurobiologia da lei creato, dopo 18 anni difficili, tortuosi, a volte perfino drammatici. A Rita è demandata non solo l'organizzazione del centro, ci mancherebbe, ma anche ogni aspetto operativo, compreso la contabilità e la gestione della corrispondenza, cose di cui non si era mai occupata e per le quali dimostra fin da subito una preoccupante disorganizzazione. Il CNR mostra di non avere alcun programma strategico che riguarda il neonato centro. I soldi per far funzionare il centro naturalmente arrivano col contagocce e sono sempre a breve termine e soggetti a possibili e continui ripensamenti da parte della politica. Il laboratorio viene installato in pieno centro a Roma, in Piazza del Popolo, in un palazzo in affitto, in cui ogni mese l'ufficio di igiene è sul punto di mettere i sigilli per timore che si usi materiale radioattivo. E la mancanza di vigilanza, poi, consiglia ai ricercatori a svolgere rigidissimi orari d'ufficio 9-18, altro che le notti in laboratorio come St. Louis. Il gruppo di giovani ricercatori reclutato da Rita riceve uno stipendio misero e non ha alcuna garanzia di continuità, tanto che un giorno lei stessa, in una lettera da St. Louis alla sorella, è costretta di pregarla di prelevare i soldi dalla banca per pagare allo staff lo stipendio del mese precedente che ancora non è stato liquidato. Ma come se non bastasse, poi gran parte della squadra si adegua facilmente ai ritmi ministeriali di Roma, facendo lunghissime pause pranzo o lasciando gli uffici alle 2 del pomeriggio. A partire dall'inizio degli anni 70, il CNR si disinteressa completamente della neurobiologia e soprattutto del laboratorio di Rita, che continua, sì, ma a singhiozzo, in modo fortunoso, portato avanti grazie all'entusiasmo di pochi tecnici di primo ordine che non abbandonano Rita, che però, quando nel 1979 raggiunge i 70 anni, sceglie di tirare i remi in barca e dice basta, lascia perdere tutto quanto. All'estero, dopo alcuni anni di diffidenza, gli studi sull'NGF sono ripresi e continuati, stanno portando risultati incredibili, a scoperte pazzesche. In Italia, che ospita chi lo ha scoperto, tutto è bloccato. In attesa di un decreto, dell'insediamento di un governo amico, di Sua Eccellenza, che quando ha tempo vorrei che leggesse questa... ciao. Sì. Quando ha tempo. Ho 70 anni. Ho faticato per tutta la vita. Ricevo ogni giorno inviti per presenziare a conferenze in Italia, all'estero, dove vengo trattata con tutti gli onori. E in Italia, invece, nel mio paese, nessuno sa chi sono. Nemmeno chi lo dovrebbe sapere, almeno per ruolo, anzianità o grado. Sapete che c'è? Andatevene un po' tutti a fanculo, Rita Levi-Montalcini, educata e corretta com'è, l'ultima frase non l'avrà sicuramente mai detta. No, ma sono sicuro che l'abbia pensata. Sì, più volte. E che questo le sia tornato in mente quando nel novembre 1986 riceve una letterina da Stoccolma che le dice che lei e Stanley Cohen hanno vinto il premio Nobel, con una motivazione che è la summa del suo modo di vivere e forse anche di lavorare. La scoperta dell'NGF all'inizio degli anni 50 è un esempio affascinante di come un osservatore acuto possa estrarre ipotesi valide da un apparente caos. Oggi possiamo dire che l'NGF scoperto da Rita è quella cosa che per molti di noi è ancora molto misteriosa e che non riusciamo bene a capire del tutto. È di vitale importanza per la cura a malattie come il morbo di Alzheimer, la sclerosi multipla, alcune malattie della vista che possono portare alla cecità. Ricerche che anche Rita porterà avanti fondando nel 2005 a Roma Lebri, che tuttora si occupa di neuroscienze. Ma in quel novembre del 1986 tutto questo deve ancora accadere. E forse Rita manco se lo riesce a immaginare. C'è un presente troppo forte in quel momento, fatto di soddisfazione, di rivalsa, per poter pensare al futuro. Rita ripone la lettera sulla scrivania, si alza e con un lievissimo tremore nelle mani che tradisce l'emozione che prova in quell'istante, si versa un bicchiere di vino. Poi si avvicina al giradischi e mette sul piatto il primo lead di Schubert della raccolta Winterreiche e si siede in poltrona. Lentamente le tornano in mente i volti dei suoi amici e dei suoi maestri. Suo padre, che nel cercare di dissuaderla da continuare a studiare, ora lo sa, cercava di metterla in guardia dalle difficoltà che avrebbe incontrato in quanto donna. E poi Giuseppe Levi, dalla voce possente e dall'animo gentile. E Nando, il suo unico, vero, grande amico, il cui bellissimo volto è rimasto eternamente giovane. Victor Hamburger, che anziché deriderla, ha voluto che condividessero i loro saperi. Stan, che quando le cose andavano bene suonava meglio, mentre Smog scodinzolava, soddisfatto. Renato e Salvatore, che la prendevano in giro in quelle domeniche a Bloomington. Un sorriso soddisfatto. E il cielo blu di Roma fuori dalla finestra. Le torna in mente quella volta in cui, a un convegno negli Stati Uniti in cui per l'ennesima volta è l'unica donna relatrice, è stata avvicinata dalla moglie di uno di quei professoroni seduti al tavolo, che per fare amicizia le ha rivolto una domanda ovvia, perfino piuttosto scontata, per rompere il ghiaccio fra le poche donne invitate a simili congressi in qualità di consorti. Buongiorno, non ci conosciamo. Lei di chi è moglie? E Rita, con assoluta soavità, il suo sorriso un po' sghembo e un lampo di malizia assassina negli occhi, le ha risposto leggiadra: mia cara signora, mio marito sono io.